piaceri da cinviti per l'onore di nome disprezza il fuggir del piacere i dolci inviti mentre nel suo sembiante della rosa fiorisce il riso amante Si non prezzo non è stato incontrare il vago porto di libertà gradita. Or dal lido del volo parto fuoco mi trovo, contenti, contenti, venite, venite, sussurra, sussurra, venite, venite, venite, venite, sussurra. Se di mora, agnora, che fugge, sorrisciami, sorrisciami, sorride mai pietra, ne torna mai più, sparisce, sparisce, ne torna mai più. Contenti, contenti, venite, venite, venite, venite, venite, venite, venite, venite, venite, venite, venite, venite, venite, venite, venite, Mamma Mirio Maria, splendore d'Egitto, che la sponda natia al tuo vago sembiante è troppo angusta. Sol Gerusalemme, vago trofeo, a tua bellezza altere. Vanne pur, vanne, o bella, che non tue luci accere, in quel sacrato tempio sarai d'alme devote. Oh. brillante al cero la vezzosa beltà. Cesserà, cesserà di venerar quel trono per adorare il rai del tuo sembiante. Che l'idolo tu sei, che l'idolo tu sei, d'ogni alma amante. Del mio nome crini lo spirito amoroso d'ogni alma letrosa. A terri, a terri il ricordo. Del mio nome crine la sfilza borrosa d'ogni alma latrosa. A terri, a terri, a terri il ricordo. D'ogni alma ritrosa a terri il rigor. A terri, a terri il rigor. Un vezzo ridente, un riso lucente, il vago accenno del nero vermiglio. Un vezzo del cilio, un riso del vago mio cenno del labbro vermiglio. Abbatta, abbatta, abbatta l'orgoglio d'ogni alma riscoglio a stuali d'amor. Crini lo spirito.